Inizia anche per questa sera il nostro consueto spazio appuntamento di Arden Devil. Benvenuto su Rock FM dalla voce di Marco Gravelli, insieme dalle ore 20 circa sino alle ore 21 con lo spazio dedito al mondo dell'hard rock e dell'heavy metal e di tutti i suoi sottogeneri, tutti o quasi. La prima parte come sempre con diversi ripescaggi dal passato e poi nella seconda troveremo tantissime novità. Il tutto offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano, il nostro sponsor. Ricordo il sito internet www.mariposadischi.it e poi il nostro valido autore Simone, che ci permette di partire con i Vandenberg, una band hard rock olandese il cui leader è il 54enne chitarrista Adrian Vandenberg, che dopo aver sciolto i Teaser decide di formare una band nel 1981 con una nuova lineup e un nuovo nome. L'esordio risale all'82 con l'omonimo album che arriva al numero 8 in Olanda e 65 in America. Questi buoni risultati gli diedero la possibilità di suonare di spalla sia i Kiss che Ozzy Osbourne. Nell'83 arriva il secondo album, Heading for a Storm, che vissò il successo in Olanda ma non in America. Il terzo lavoro si intitola Alibi, fu invece un insuccesso e nel 1986 la band si sciolse. Vandenberg accettò l'insistenza di David Coverdale per suonare negli Whitesnake, con i quali ha suonato nella celebre Here I Go Again, oltre ad aver partecipato attivamente al songwriting dell'album Slip of the Tongue ed aver suonato in Restless Heart. Per quanto riguarda i Vandenberg, l'ultima uscita è stata un best of nel 2004. Dal primissimo album, oggi andiamo ad ascoltare questa canzone che si intitola Ready for You, Vandenberg. Rock the whole night. pronti per voi, o pronto per te, Ready for You, Vandenberg, dal loro primo album, hard rock band appunto olandese, capitanata da Adrian Vandenberg, che poi molti conosceranno appunto, come ho citato, per essere diventato chitarrista di David Coverdale e degli Whitesnake. Virgin Steel, la prossima band, mi è stata anche richiesta, epic metal band americana, esattamente di Long Island, il cui leader è il cantante David The Face. Al pari dei Manowar, sono considerati più importanti esponenti di un certo epic metal. Il gruppo nasce nell'81, creato dal chitarrista Jack Starr, che lascerà la band nell'84 dopo due album. L'esordio discografico arriva un anno dopo con Virgin Steel One, e la prima notorietà arriva con l'ottimo secondo album Guardians of the Flame. Segue quindi l'abbandono di Jack Starr per divergenze musicali e l'ingresso di Edward Pursino come chitarrista. Il terzo album è quello che vi presenteremo questa sera, cioè Noble Savage, considerato da molti il loro capolavoro. La loro notorietà era giunta sino in Europa e grazie a quest'album intrapresero un tour di supporto ai Manowar e ai Black Sabbath. Dopo un periodo un po' deludente, la band torna alla ribalta con due CD dal titolo The Marriage Between Heaven and Hell Part 1 and Part 2. Altro album da menzionare è l'ottimo Invictus. L'ultimo lavoro è Vision of Eden, uscito alla fine del 2005. Questo album, Noble Savage, uscito originariamente in vinile nel 1986, viene ristampato proprio questa settimana dalla etichetta Dockyard One in versione rimasterizzata. Noi dall'originale vinile invece andiamo a proporre la traccia 2 della B-side, della seconda facciata dell'album, The Evil in Her Eyes. Questo è il titolo del motivo da Noble Savage, la formazione dei Virgin Steel. in her eyes, il male nei suoi occhi. Virgin Steel, The Noble Savage, ripeto, questo lavoro verrà pubblicato proprio questa settimana in versione rimasterizzata in CD. Oggi abbiamo ascoltato proprio l'originale di questa Evil in Her Eyes per la band dei Virgin Steel. Andiamo invece a qualcosa che è uscito più di recente, gli Empire. Dopo un anno e mezzo dal precedente lavoro dal titolo The Raven Ride, è uscito a dicembre del 2007 il quarto album Chasing Shadows. È una project band del famoso chitarrista Rolf Munkis dei Majesty, oltre che dei Razorback. In tema di lineup, l'unica riconferma rispetto al precedente lavoro è quella del bassista Neil Murray, già ex Whitesnake ed ex Black Sabbath. I nuovi entrati sono prestigiosissimi, cioè Dougie White, ex cantante di Rainbow e di Malmsteen, alla batteria il bravissimo Mike Terrana dei Master Plan, Savage Circus, che ha suonato per Malmsteen, Rage, Attention e in tantissime altre band e collaborazioni. L'album infine è stato registrato negli studi personali di Rolf Munkes, cioè gli Empire Studios, da cui anche, diciamo così, il nome della band o viceversa. Empire è il nome del gruppo, la canzone si intitola The Altar, dall'album Chasing Shadows, stampato dall'etichetta Metal Heaven. The Altar dall'album Chasing Shadows, il nuovo lavoro degli Empire uscito alla fine del 2007. Li abbandoniamo per venire a parlare di una band, una delle poche band hard rock tutte al femminile. Qualcuno magari di voi se le ricorderà perché le ha viste anche dal vivo. Parteciparono in Italia ad un Gods of Metal in quelle di Bologna. C'erano Fenomore, c'erano Poison, la memoria mi porta anche, se non sbaglio, ai Whitesnake, Aerosmith, eccetera. Vixen, il nome della band, arrivano dall'America, sono ancora in attività, composto da quattro fanciulle. Le Vixen furono create dalla chitarrista Jan, che ad oggi è l'unico membro originale di quel gruppo. Pubblicarono un EP e poi nell'88, 5 anni dopo, il lavoro d'esordio, che si intitolava come loro Vixen e che ottiene un buon successo in tutto il mondo, tanto che nel Nord America riceve il disco d'oro vendendo ben 500.000 copie. Suonano così diverse date di supporto a grandi nomi, tra cui Black Sabbath, Billy Idol, Bon Jovi, Deep Purple. Il secondo album si intitola Rev It Up e arriva 2 anni dopo, nel 90, al quale segue anche lo scioglimento. La band si riforma 7 anni dopo con soli 2 membri originali e senza Jan, poiché non era stata nemmeno contattata. Con questa nuova formazione nel 98 pubblicano il terzo album Tangerine, che è anche il loro ultimo album di quel periodo. Arriviamo nel 2001, c'è il ritorno della chitarrista fondatrice Jan ed un nuovo cambio di formazione che vede la sostituzione di 3/4 della band, che rimarrà stabile sino ad oggi. La loro ultima fatica discografica è un album intitolato Live and Learn, uscito nel 2006 tramite Frontiers Record. Oggi noi andiamo ad ascoltare uno dei loro singoli di successo, brano dal titolo How Much Love. Vixen. We'll be right back. singolone di successo questo per le Vixen, che per la prima volta trovano spazio nel nostro appuntamento serale da lunedì al venerdì su Rock FM con Arden Devi, insieme a Marco Gravelli, insieme a Simone, il nostro autore, e Mariposa, il nostro sponsor, dove trovate tante novità, i dischi del passato, biglietti per concerti, e guardate un po' tutto tramite il sito internet www.mariposadischi.it. Chiudiamo la prima parte invece con una ottima band di thrash metal americano che si sono riformati e torneranno anche dal vivo in Italia quest'estate. Stiamo parlando dei Death Angel. La band arriva da San Francisco, nasce nel 1982 quando fu creata da tre cugini di origine filippina. Inizialmente il nome era Dark Theory, successivamente cambiato in Death Angel. Dopo aver suonato in diverse cover in vari locali, la band comincia a comporre brani propri e dopo aver suonato di supporto agli Exodus, Merciful Fate e Megadeth, registrano un demo prodotto niente meno che da Kirk Hammett dei Metallica, che ebbe un buon successo. Ottengono così un contratto, arrivano all'esordio nel 1987 con l'ottimo album di Ultraviolet, che gli permette di andare in tour insieme agli Slayer. Purtroppo nel 90, durante un tour con Chris Poland, la band ha un incidente stradale che coinvolge il cantante e soprattutto il batterista Andy Galeon, al quale occorse più di un anno per riprendersi. La band, diciamo, si scioglie, anche se nel frattempo pubblica due album sotto il nome di The Organization, per poi riformarsi con il moniker Death Angel nel 2001 in occasione di alcuni festival. Il ritorno sul mercato avviene nel 2004 con The Art of Dying. Il prossimo nuovo album in studio ormai pronto si intitola Killing Season, uscita prevista per il 29 di febbraio. Inoltre i Death Angel, come dicevo, suoneranno a Milano sabato 12 luglio nella versione nuova, perché continua a cambiare location, appunto a Milano all'Idroscalo, dell'Evolution Festival. Noi li andiamo ad ascoltare dall'album The Ultra Violence, dove il batterista aveva 14 anni, pensate un po', all'epoca aveva 14 anni. Il pezzo che chiude la prima facciata si intitola Killers One, Death Angel. We'll be right back. inizio AOR di questa seconda parte di Hard and Heavy per l'appuntamento del lunedì sera, oppure se state seguendo la replica siamo nel mercoledì. La voce di Marco Gravelli con voi, il sound degli Action con questa Without Your Love, band AOR all'esordio, anche se alle spalle abbiamo dei musicisti che suonano da tempo, cioè il chitarrista Chip e il cantante Jack Marquez. Il progetto Action risale addirittura al 1985, ma avendo Chip collaborato con diverse band, non aveva tempo perché ha suonato con i Quiet Riot, gli Slaughter, i Zebra, ha dovuto sempre mettere da parte questo progetto. Poi arrivano gli anni 90, altri generi di musica, quindi aspetta, alla fine si mette insieme appunto al cantante Jack Mars, che ha già legato il suo nome ai crossover e gli Unknown God. Rincidono i brani, cambiano le canzoni, registrano un demo che desta interesse per l'etichetta italiana Frontiers Record, che ne ha pubblicato lo scorso dicembre questo omonimo debutto che si compone di 11 ottime tracce di AOR, e io vi ho proposto Without Your Love. Altra band all'esordio arriva questa volta dalla Scozia, propongono un power folk metal, loro definiscono un metal dei pirati, pirate metal, anche perché i temi trattati sono quelli, sulla copertina vi è lo scheletro di un pirata, eccetera eccetera. Il gruppo nasce nel 2004, dapprima con il nome di Battle Art. In principio erano un duo costituito dal cantante, tastierista e dal chitarrista. Registrano un EP e all'inizio del 2006, una volta completata la formazione, registrano un secondo EP che gli vale la partecipazione ad una compilation con Firewind, Hammerfall, Blind Guardian. Lo scorso anno hanno cambiato proprio il nome nell'attuale Alice Storm ed hanno stipulato un contratto con la Napalm Records, che ne ha pubblicato questo album d'esordio che si intitola, visto che si parla di pirati, Captain Morgan's Revenge. Ci sono 10 brani, oggi ascoltiamo questa The Hunt Master. Meaning of fear and the scozzesi Alice Storm con il loro album d'esordio dedicato al capitano Morgan, Captain Morgan's Revenge, con il brano che abbiamo ascoltato intitolato The Ant Master. Andiamo ai Paradox, band che si è riformata da poco con la pubblicazione di questo nuovo album dal titolo Electrify. Band che propone un thrash metal, arrivano dalla Germania. Il leader e fondatore è il cantante e chitarrista Charlie, che insieme all'ex batterista aveva creato nel 1986 Paradox. Grazie ad un demo riescono a ottenere un contratto con la Roadrunner Records, che li mette sotto contratto e pubblica i primi due album. Cambiano poi l'etichetta, passano alla AFM Record, che pubblica nel 2000 il terzo lavoro, che vedeva la sostituzione del chitarrista e della sezione ritmica. La band poi viene messa da parte per diversi anni, sino al 2005, quando Charlie li riprende in considerazione e li ricrea con una nuova sezione ritmica. E lo scorso 10 gennaio sono usciti con questo nuovo album, che si compone di 10 brani mixati e masterizzati da Jacob Hansen presso i suoi Hansen Studios in quella della Danimarca. Il pezzo che andiamo a proporre si intitola Monument, dall'album Electrify, i tedeschi Paradox. Life! Immancabile l'appuntamento delle Metal News. Abbiamo parlato in precedenza dell'Evolution Festival presentando i Death Angel. Scopriamo altre novità per questo festival che, come vi ho segnalato, quest'anno si terrà all'Idroscalo di Milano. Saranno due le giornate, precisamente venerdì 11 e sabato 12 luglio. Gli headliner di venerdì saranno i Cavalera Conspiracy, che è il nuovo progetto dei fratelli Cavalera ex Sepultura. Altre band che sono state aggiunte sono i Sonata Arctica, i nostrani Dark Lunacy e la band dei Death Angel. Parliamo degli Hate Eternal, la brutal death metal band americana del cantante e chitarrista Eric Rutan, ex Morbid Angel, suonerà in Italia per due date, il 17 e il 18 di maggio, rispettivamente al Lucille Club di Verona e all'Alpheus di Roma. Il loro nuovo quarto album, Fury and Flames, verrà pubblicato dalla Metal Blade il 17 di febbraio. I Pain, il progetto del cantante polistrumentista Peter Tagtren, suonerà di spalla in Nightwish anche qui a Milano. Tornerà anche con un album a settembre di quest'anno. Inoltre i Pain hanno ricevuto uno Swedish Metal Award come miglior album metal per il 2007. Glenn Hughes. Il titolo del nuovo album di Glenn Hughes sarà First Underground Nuclear Kitchen. Verrà pubblicato in maggio, l'artista si è dichiarato fiero delle canzoni scritte. Ricordo che sarà proprio il 27 di maggio, Glenn Hughes suonerà al Music Drone di Milano. Gli Asia, la band inglese, sta ultimando le registrazioni del nuovo album, il cui titolo sarà Phoenix, comprenderà una dozzina di tracce. L'album dovrebbe essere pubblicato in aprile tramite Frontiers Record. Parliamo dei Sand Demon. La band svedese registrerà un video di supporto al nuovo album In Shadows Lost from the Brave. Le riprese cominceranno il 16 di febbraio. Devono ancora scegliere però quale brano interpretare in questo video. Per quanto riguarda la band, è composta da quattro elementi, creata nel 2007 dal batterista Ronnie in seguito alla sua fuoriuscita dai Dionysus avvenuta nel novembre del 2006. Per completare la line-up ha reclutato il bassista dei Dionysus stessi, mentre per il ruolo di cantante è stato ingaggiato il bravo vocalist norvegese Jan Thron degli Highland Glory. È grazie all'etichetta Frontiers, che è uscito da un paio di settimane, questo loro album d'esordio, dal quale oggi andiamo a proporre le note di Black Symphony. Deep in his mind, he knows he can find peace until. Black Symphony dall'album In Shadows Lost from the Brave, edito su Frontiers Record. Abbiamo ritrovato i Sand Demon. Andiamo in Germania con la band che canta in lingua tedesca, si chiamano Grantig. È uscito lo scorso weekend su etichetta Drakkar Records questo lavoro, composto da quattro giovani ragazzi. La particolarità, appunto, che cantano in lingua madre. Alle spalle hanno un demo uscito 3 anni fa che gli è valso un contratto, appunto, con la Drakkar Records. Sono 11 tracce, musicalmente abbastanza vicino al sound dei Pantera. L'album si intitola So Muss Es Sein. Il pezzo è quello che apre l'album, è Der König. Dal loro CD d'esordio cantato in lingua madre, 11 brani in totale per questi Grantig, nome della formazione. E chiudiamo il nostro primo appuntamento di questa settimana, o terzo se seguite la replica del mercoledì di Hard and Heavy, con i Crash Diet, band che arriva da Stoccolma. Secondo album, propongono uno sleazy glam rock. Il gruppo, dopo l'esordio che era arrivato al numero 12 in Svezia, ha rischiato praticamente di sciogliersi per la morte del loro leader fondatore, il cantante chitarrista Dave Leppard, avvenuta 2 anni fa. La band però si riprende, trova questo nuovo vocalist finlandese che si chiama Oliver Twisted e incide questo nuovo album. Tra parentesi, vi è come special guest Mick Mars dei Motley Crue in 2 brani. La scorsa settimana ha vinto anche uno Swedish Metal Award nella categoria miglior band Sleaze Glam Rock. Io chiudo quindi con un estratto da questo The Unattractive Revolution, questo è il titolo del loro secondo CD, Crash Diet. La band, un grazie a voi, un grazie a Simone, il nostro autore, lo sponsor Mariposa Dischi. Vi lascio al resto degli appuntamenti musicali di Rock FM. Ricordo che tutte le puntate di Arden Devi le potrete riascoltare interamente tramite il nostro sito nella sezione archivio programmi www.radiorockfm.com. Da Marco Gervelli è tutto, buonanotte, ciao!